Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ci ritroviamo con il consueto appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto al presidente Carlo Garofolini, che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. È notizia, insomma, dell'inizio del mese di febbraio che gli autovelox che sono stati messi in tangenziale a Padova iniziano a scattare le fotografie e conseguentemente inizieranno ad arrivare le multe, che invece nel periodo, diciamo, tra dicembre e gennaio sono state, come dire, cancellate da una decisione del sindaco di Padova. Quindi si ritorna a prendere le multe, questo per la città di Padova, ma è una cosa risaputa, insomma, che con gli autovelox, con i rilevatori di velocità, insomma, posti nelle strade, si va un pochettino a colmare i buchi di bilancio dei comuni. Sì, è il caso di dire, nel caso di Padova, che sicuramente il neo sindaco Bitongi ha fatto un'iniziativa inconsueta per chi amministra il paese, rinunciando a parecchi milioni di euro e condonando un po' le multe prese sotto il periodo di Natale. È anche vero che però adesso siamo all'inizio dell'anno 2015 e anche Padova, come tutti gli altri comuni, hanno capito che alla fine della fiera, in un momento di difficoltà di bilancio, una delle entrate, diciamo un rubinetto aperto per i conti delle pubbliche amministrazioni, sono proprio le sanzioni derivate dalle multe. E come Adico noi abbiamo sempre denunciato un po' questo accanimento nei confronti degli automobilisti, perché siamo convinti che fondamentalmente utilizzare queste apparecchiature nei centri abitati, dove si cerca di defraudare questi poveri automobilisti, soprattutto nelle ore in cui vanno a lavorare, non sia un'operazione che possa dare sicurezza o fare prevenzione, ma sia solamente quella di rovinare le famiglie prelevando dalle tasche proprio i soldi dal portafoglio. E pensare che poi effettivamente l'automobilista è uno dei soggetti più tassati, no? Perché immaginiamo il 22% quando compri la macchina, che è l'IVA, poi andiamo a vedere il bollo, che è anche quello, è un salasso che va alla regione, poi ancora hai l'assicurazione dell'auto, che cosa manca? Le tasse sulla benzina non ne parliamo, poi ti capita anche una multa, ti fai due conti in un anno, ti conviene andare via in taxi fra poco. Certamente tu hai parlato di costi, dobbiamo ricordare anche le gomme estive, le gomme invernali, tagliando l'usura, gli imprevisti, la svalutazione dell'auto negli anni, però c'è da dire una cosa. Allora, innanzitutto è una cosa scandalosa che i comuni in sede di bilancio vanno a mettere come voce preventiva di entrata le sanzioni, perché teoricamente i proventi derivati dalle sanzioni non dovrebbero essere neanche messi come voce di preventivo di spesa, perché teoricamente nessuno dovrebbe prendere multe. Quindi già qua si capisce come i comuni perseguono un'attività, chiamiamola così, proprio a voler, noi continuiamo, ripeto, a rovinare le famiglie, perché qua non si tratta di fotografare chi corre 100 km/h nei centri abitati o di 200 in autostrada, ma si tratta di togliere punti e soldi a chi magari non si ferma nella riga bianca dello stop, a chi magari, adesso ci sono anche qua sentenze della Cassazione che stabiliscono la durata dell'arancione che può essere inferiore ai 3 secondi, c'è chi mette in 4 secondi, ma comunque parliamo di dispositivi che non aiutano l'automobilista a fermarsi, perché l'unico dispositivo efficace è il contasecondi, invece una telecamera che si attiva allo scattare dell'arancione è molto più efficace di uno strumento che invece induce l'automobilista a valutare se poter iniziare una manovra o meno. E soprattutto è scandaloso come, a parte i parcheggi e altre cose a pagamento, questi proventi derivati dalle multe non è niente vero che vengono utilizzati per sicurezza, ma vengono solamente utilizzati per sanare le casse. E l'indagine che è stata fatta per il 2015 dimostra come i comuni in sede di bilancio hanno stimato un incremento del 20% rispetto a quelle che sono state le entrate del 2014 determinate da questi proventi. E pensiamo per esempio a Milano, che ha un'entrata di 480.000 euro al giorno, per esempio, giusto per dare un dato. Pensiamo a Bergamo, che ha avuto 2.000 multe in più rispetto al 2013 e al 2014, quest'anno aumenta del 20%, e tanti altri comuni. Quindi un fenomeno che non si spiega come mai, con l'attivarsi di telecamere, velocard, autovelocard, ZTL e qualsiasi altra cosa, penso chiunque di noi abbia potuto utilizzare l'auto se ne sia reso conto, alla fine deve mettere in conto che l'auto sta diventando un mezzo per non incentivare certamente la vivibilità nei centri storici, ma dissuadere veramente le persone a frequentare i paesi, le città, con la conseguenza che i commercianti e quant'altro sicuramente saranno i primi a farne le spese. Sì, è vero. Io personalmente ho un certo timore ad avvicinarmi in una città che non conosco, perché non sai mai le zone a traffico limitato, la difficoltà a muoversi, tantissimi messaggi di cartellonistica stradale che non fai in tempo, insomma, a leggere se sei anche impegnato magari a ricercare una strada piuttosto che un'altra. E quindi è un attimo, come dire, prendersi una multa inconsapevolmente. Sì, poi la cosa più incredibile è che, come questo governo sta cercando di aggranellare i soldi da tutte le parti, cosa ha fatto? Innanzitutto quest'anno hanno aumentato i costi di ricorsi al giudice di pace, quindi se uno vuole fare ricorso il contributo unificato diventa più costoso rispetto a prima, da 37 mi pare 145-146 euro. La seconda cosa, la bufala dello sconto del 30% dei 5 giorni, quando abbiamo visionato anche noi come Adico i comuni, alla fine vedi che lo sconto viene quasi eluso da quello che sono le spese con cui vengono notificate le multe. Addirittura ci sono stati dei casi segnalati da noi che comuni che da un lato, se paghi entro 5 giorni e risparmiavi 22-23 euro, in realtà avevano 18 euro di spese di notifica. Quindi stiamo parlando di strategie che certamente hanno solo, come detto, un'unica finalità, quello di continuare a rovinare le famiglie e non certamente di dare e di fare assistenza e prevenzione ai cittadini. Certamente strategie che purtroppo creano, come abbiamo detto, un sistema che tende a scoraggiare l'automobilista, ma poi mortificano i centri, ne guadagnano magari questi centri commerciali che sono delocalizzati rispetto ai centri storici, e con la conseguenza veramente che poi accade, come hai detto tu, che quando devi usare l'auto devi mettere in conto quelli che possono essere i peggiori scenari. E da ultimo ricordiamoci anche i punti che non sono una cosa trascurabile rispetto a quello che sono le sanzioni amministrative. Il consiglio qual è? Se c'è. Il consiglio, purtroppo, Francesco, innanzitutto io dico, chi decide di fare il corso deve ricordarsi, al di là di quello che è scritto, che è molto, che è poco chiaro, sono 30 giorni di ricorso al giudice, 60 al prefetto. Noi tendiamo a sconsigliare il ricorso al prefetto, perché automaticamente, se il prefetto non approva il ricorso, la multa si raddoppia, questo accade sistematicamente, mentre col giudice si può comunque chiedere la sospensione dei pagamenti in attesa dell'udienza. Poi il consiglio è chiaramente valutare se pagarlo entro 5 giorni, perché ha uno sconto del 30% rispetto a quello che sono le spese della multa, però c'è la speranza che se uno trova il bigliettino del Tagikistan può decidere di non pagarlo e quindi che, insomma, questa notifica non arrivi mai a casa. I 5 giorni non incidono sulla spesa della notifica, ma solamente sull'importo. E per qualsiasi altra informazione, noi dell'Adico siamo sempre stati protagonisti su queste vicende, abbiamo vinto anche molte battaglie, siamo riusciti a cambiare anche quelle che erano delle indicazioni o delle direttrici che il comune, anche qui a Venezia per esempio, aveva imposto, però certamente ci rendiamo conto che non è questa la nostra finalità e che certamente non è questo il modo migliore per poter non pagare multa. L'unica cosa che dico è bisogna cercare di utilizzare i mezzi pubblici o evitare, come hai detto tu, purtroppo, di andare sui centri storici, perché bisogna mettere in preventivo quelli che ormai sono veramente delle trappole. Ecco, ricordiamo che associazionedifesaconsumatori.it è il vostro sito, voi siete a Mestre, ma insomma seguite anche pratiche di altre città, ovviamente. Sì, sì, tranquillamente, a prescindere dalla località dove uno chiama, per l'Adico è indifferente, assiste a Padova, come fuori Veneto, come per dire la Sicilia, siamo organizzati per offrire un servizio completo. E l'unica cosa, ecco, che purtroppo il discorso delle multe sono sempre discorsi molto ambigui, perché alla fine ti devi sempre rimettere su quelle che sono delle sentenze di un giudice e quindi non certamente su quelle che sono